많이 왔지 오늘. 라디오 아치오네 .org 라디오 아치오네 Contro informazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Contro informazione, letture, provocazioni, musica. You're just this. Intervallare i nostri tipponi o le letture della controinformazione. Ricordo che invece il giorno di lettura per su radiazione è il lunedì, però per la settimana prossima non sarà lunedì ma bensì mercoledì, quindi si torna qui con Marcello, che salutiamo. Sappiamo, ciao, che ascolta. Marcello, sappiamo che ci ascolta, e quindi lo salutiamo, e quindi appuntamento qui a mercoledì con Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Siamo arrivati già a una buona parte di lettura, ovviamente ci sarà la lettura in apertura di Nazero 13 del sottoscritto, poi vedremo quanto si riuscirà a farlo uscire insieme al CD. Allora, dicevo, oggi controinformazioni, riflessioni e provocazioni e la musica. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@autistici.org, per chi vuole mandare qualsiasi tipo di scritto, comunicato da far pubblicare sul sito di radiazione. Lo ricordo di attenersi alle regole, le regole di radiazione, cioè praticamente il materiale che verrà pubblicato o non verrà mai pubblicato sul sito. Quindi prima di mandare, prima di creare polemiche, è sempre meglio darci un'occhiata, poi lo metteremo in chiaro, visibile sempre da qualche parte. Prima o poi stiamo modificando pure la pagina del sito, quindi allora dicevo, radiazione@autistici.org, dove potete ovviamente mandare anche i vostri consigli, e speriamo che ne arrivano sui libri da leggere. Ho detto che siamo arrivati in buona parte di Nessuno ci salva, si spera che per fine gennaio ci riusciamo a finirlo, e poi dopo si inizierà un altro libro con un vostro consiglio magari, o altrimenti lo scegliamo io e Marcello come al solito. Il sito di radiazione è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete ascoltare le dirette d'azione attraverso la pagina di podcast, dove potete scaricarvi un bel po' di materiale attraverso la pagina di download, dove ci trovate opuscoli, CD, manifesti, adesivi, tutto quello che i compagni mandano a radiazione, da poter far rendere accessibile a tutti, a scaricarlo senza una lira delle vecchie lire, senza un euro, senza un centesimo d'euro, perché le idee non sono in vendita. Allora, poi questo era per quanto riguarda il sito. Invece la radio trasmette sul server anarchia.net, che io continuo a dire anarchia. Vabbè, distorsioni italofone. Questo il server messo a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che salutiamo e ringraziamo sempre. Allora, prima di partire con la controinformazione, ci ascoltiamo un brano, e poi dopo si torna qui e si parte subito con la prima notizia di controinformazione. Il brano è di Anina Elias, l'ex cantante dei Atari Teenage Riot. Il brano è New Order. come detto prima, erano dei gode. Ora si ripassa ad una nuova notizia di controinformazione. Più che una notizia, sono dei testi scritti dai compagni in Cile, arrestati in Cile e detenuti tuttora a lunghe condanne per il caso Security. Gli iscritti ci arrivano direttamente da compagni di Pubblicazione Refrattario, di cui ne siamo riusciti a tradurre due. Il terzo era un po' un macello, stiamo aspettando che qualcun altro lo traduce, anche perché è scritto la punteggiatura e sia un pochino tra il cileno e il mapuche, quindi non è che si capisce tanto bene cosa vuole dire il compagno. Allora, nel frattempo leggiamo il primo testo, che sono le parole del compagno Carlos Gutierrez Quirileo. Il suo testo, con un'estrapolazione di un atto giudiziario. Seconda procura militare di Santiago: si sollecita questa procura militare, se ben lo ritenga, emettere un ordine per indagare con facoltà di detenzione dove sono e saranno trasferiti alla giurisdizione di Usia contro i delinquenti Juan Manuel Aliste Vega e Carlos Javier Gutiérrez Quirileo, entrambe con una storia di estremismo e responsabili per il reato di rapina a mano armata che subì la succursale del Banco Security situata in via Agustinas numero 621, comune di Santiago, il 18 ottobre 2007, dove morì il capo dei Carabineros Luis Moyano Farias. Ciò con lo scopo di eseguire indagini di polizia da parte di questa brigata specializzata nell'ottenere e successivamente arrestare questi pericolosi antisociali che sono latitanti da quasi un anno. Polizia di Investigaciones del Cile, archivio BIROM, ordine 1467, 24 settembre 2008. A leggere questi atti della brigata investigatora dei robots mi ha sorpreso il tono assassino delle parole. Ho riso dall'odio e dalla paura che emerge dallo scrivere i nostri nomi. Questa è la paura e l'odio che da sempre accompagna il nemico che si scontra con chi non ha mai accettato la vita da schiavi e da automi che offre il sistema capitalista. E chissà, nel terrore sentito da questo sistema, la paura e a questa continua, l'odio a questa non sottomissione, dato che in questa resistenza non ci sono ideologie o strutture da colpire o imprigionare, se non che una storia irriducibile, c'è un'opzione di vita dove il nostro miglior carburante per continuare sono i nostri cuccioli e la loro bella libertà, che sempre ci invitano a lasciargli un mondo più bello. E di fronte a questa realtà sovversiva, la reazione permanente di odio e paura del sistema e dei suoi stati diventa politica, sociale e repressiva. Ma non importa quello che siamo, ed è questo quello che continueremo a sentire. E noi siamo parte dei compagni che rischiano la vita per i sogni autonomi e libertari. Noi siamo parte di quel fuoco ardente e ribelle che riscalda le splendide notti dell'Araucanía. Alla nostra età facciamo parte dei giovani che attaccano, che fanno danni, che resistono, che mettono paura e terrore al sistema del suo stato e non accettano nemmeno nelle carceri la loro autorità di merda. 7 anni di condanna a morte che incombe sui nostri corpi. Siamo qui con la nostra storia, orgogliosi di aver l'odio, la paura. Siamo qui con voi e la vostra resistenza incessante. Finché ci sarà miseria, ci sarà ribellione. Carlos Gutierrez Quirileo, Vechafe imprigionato, CAS, carcere adatta sicura, ottobre 2014. E questa era per quanto riguarda le parole di Carlos. Invece un altro testo, sempre che ci è arrivato dai compagni di Pubblicazione Refrattaria, sono le parole unite dei compagni Marcelo Villarroel e Juan Aliste. Testo che dice: la solidarietà tra gli uguali è una pratica concreta che ci permette di contenere le vite che solcano nel confronto, la resistenza e la lotta contro l'intero ordine intarsiato dallo Stato capitalista. Solidarietà a pelle e sangue consentono di rompere con i modelli o supposti principi rivoluzionari. La guerra sociale è una costante che opera in ogni momento, in ogni angolo in cui il potere ha posto il suo apparato di dominio, salvaguardando la sua pace sociale, il percorso di vita tracciato dove si sostiene con la sottomissione, la repressione, il carcere o la morte per tutti coloro che non sono pronti a ballare sui loro suoni di schiavitù investita dalla polizia, lacrimogeni, cocaina, consumismo. tutto sotto la grondaia di questa democrazia omicida. Il valore della sovversione autonoma rimane la continuazione della lotta e la posizione decisione per affrontare lo Stato in modo individuale o collettivo, dignitosa, rivoluzionaria, non sottomessa né presente dove ogni atto trascende e raccoglie la storia per sovvertire di più. Angolo della vita in cui si incontrano nella lotta i cuori libertari, disposti a seguire instancabili, distanziandoci da gerarchie, in più con una convinzione di vita disposta a combattere lo Stato capitalista e la sua società carceraria. Forza Neuen, Neuen, non lo so come si legge, e energia a tutti coloro che lottano e resistono. Rafforzare i legami e la decisione di combattere sempre in movimento e rivendicandoci. E reinventandoci. Prigionieri della guerra sociale, liberi via all'insurrezione, solo la lotta ci rende liberi, finché ci sarà miseria, ci sarà ribellione. Marcelo Villarroel, prigioniero libertario, Juan Alice Vega, prigioniero sovversivo. E questi erano i due testi di tre compagni rigiusi per il... detenuti e condannati a pene che vanno dai 7 anni in su per la rapina Banco Security. Ora ci riascoltiamo un brano, loro sono gli Span Ranch con il brano Vortex, e poi dopo si torna qui e ancora una nuova notizia di controinformazione. Unraveling in this form. Allora, passiamo in Grecia. Insomma, le notizie qua sono della Grecia o del Cile. Oggi siamo voliamo tra Cile e Grecia. Mettiamo sto viaggio low cost. Beh, soprattutto per un motivo ben preciso, perché c'è in corso ormai da 10 novembre lo sciopero della fame di Nikos Romanos, a cui si sono aggiunti dal 1 dicembre i suoi compagni Bourzoukos e Politis. La loro dichiarazione della fame: solidarietà. Dal 10 novembre il nostro amico e compagno Nikos Romanos è in sciopero della fame, esigendo permessi di studio come consentito dalle loro stesse leggi. Ma la sua lotta non può in ogni caso essere isolata dalle sue caratteristiche politiche che lui stesso ha scelto, o essere concepita come qualcosa di inferiore allo stesso bisogno che anche noi abbiamo di distruggere il sistema di oppressione e di miseria che ha dominato le nostre vite per secoli. Non possiamo ignorare il diffuso clima politico che esiste nella nostra epoca. La perversa oppressione scatenata dallo Stato e dal capitale contro chiunque tenti di resistere alla brutalità capitalista e al tangibile attacco dei parassiti di questo sistema economico. Nel momento in cui il Ministro della Giustizia sta preparando le carceri di tipo C per trasferire i combattenti anarchici, comunisti e i detenuti disobbedienti, Nikos ha scelto di erigere una barricata per se stesso e di conseguenza per tutti noi, contro le crescenti restrizioni che sta vivendo. Il 24 novembre è stato trasferito, su ordine del PM, all'ospedale di Georgios Genimatas. Il suo trasferimento è stato a un carcere in cui si afferma sfacciatamente che la responsabilità per Nikos adesso è deposta nei medici dell'ospedale, trasferendo indirettamente il compito dell'alimentazione forzata al personale ospedaliero. Nonostante tutto ciò, che lo vogliano o meno, i responsabili per qualunque cosa accada alla salute di Nikos sono il ministro della giustizia Nikolopoulos e l'amministrazione carceraria. Come gesto minimo di solidarietà, anche noi entriamo in sciopero della fame, proprio come il compagno Yannis Michaidilis, che l'ha iniziato il 17 novembre, dal 1 dicembre finché la sua richiesta non sarà accolta. Si tratta, dopo tutto, di quella forza all'interno dell'essere umano con cui realizziamo tutto, solo determinazione e direzione pura del cuore. Chiunque possieda questa forza non dovrebbe smarrire se stesso nella paura. Insieme fino alla fine, insieme fino alla vittoria. Andreas Dimitris Bourzoukos, Dimitris Politis. E questo era l'annuncio per sciopero della fame, iniziato il 1 dicembre. Nel frattempo anche Yannis è stato ricoverato in ospedale, perché aveva iniziato una settimana dopo di Roma. Abbiamo deciso di far entrare in sciopero in solidarietà con il loro compagno coimputato nel caso della doppia rapina di Velvedo Cosani. Ormai uno sciopero a rotazione, iniziavano un po' per volta, invece poi alla fine è iniziato prima Mihailidis e poi dopo tutti e due insieme a Politis e Bourzoukos. Ormai è passato insomma un mese quasi dall'inizio dello sciopero di Nikos. Insomma, le sue condizioni non sono un granché. Lui ha anche rifiutato ogni, come si dice, le flebo, insomma, e quindi beve solo acqua zuccherata, se non con zucchero, insomma, per il glucosio, e non desiste in questa sua richiesta di avere i permessi d'uscita che gli vengono, ovviamente, che gli sono stati rifiutati, perché ovviamente oggi c'è la tecnologia che ci offre questa bellissima possibilità della videoconferenza. Ah sì, abbiamo l'Italia fa scuola su certe cose, saremmo terzo mondo per tutto, però per quanto riguarda la repressione Italia insegna, siamo i primi, è tutto quella è come l'Italia, un paese fondato sul lavoro, degli sbirri però. questo non si smentiscono. C'è sono 3.000 disoccupati, ma questo vorrei interessare relativamente a un anarchico, però è fondata sul lavoro depressivo. Si sono dimenticati di mettere questo è sottointeso. Sì, vabbè, infatti il lavoro loro lavoro come il lavoro che facevano a Roma la banda tra l'ex NAR e i vari politici, imprenditori e merda varia. Vabbè, questa era per quanto riguarda l'annuncio dell'entrata in sciopero della fame di Politis e Burzukos. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Copped in Rain con il brano The Moment, e poi dopo si torna qui e leggiamo proprio uno scritto di Romanos, di Nikos Romanos dall'ospedale, dove praticamente sono... c'è stata una manifestazione c'è stata una manifestazione in moto in solidarietà, ci sono stata una manifestazione di massa, ci sono stati degli scontri. Dico, sta disposto, ci sono i video su YouTube, ormai ci sono i video su tutto. Questo va molto, è molto in. Va molto di moda dappertutto, tranne in Italia, perché ovviamente siamo le prime cavie per la sperimentazione repressiva, e quindi noi i video li abbiamo abbandonati da un bel po' di tempo, diciamo da Genova si è capito che forse i video non sono utili, qualche perquisizione arrivano su una videocassetta, il computer, ti trovano il video e si vede tipo per lanciare di tutto, ripresa proprio in primo piano, cosa che purtroppo non avviene in altri paesi. In Sud America, in Grecia in continuazione escono questi video su video. Beh, allora, dicevo, ascoltiamoci un brano di Copped in Rain, poi dopo si torna qui e si leggono gli aggiornamenti che ci dà direttamente Nikos Romanos per il suo sciopero della fame dall'ospedale. The Moment, loro erano Caught in Rain. Allora sì, ritorno alla controinformazione, dicevamo, di uno scritto di del compagno Nikos Romanos, compagno da cui poi è partito tutto lo sciopero della fame e pure tutta una serie di azioni in solidarietà che non sono mancate un po' da tutto il mondo, tranne in Italia ovviamente, perché noi siamo sempre la nazione dove sperimentano la repressione, e questa è una buona scusa per non fare un cazzo. Allora, bando alle ciance. Leggiamo questo scritto di Nikos, che ha per titolo Danzando con la morte da 24 giorni. Cerco di plasmare su di una manciata di foglietti gli ultimi residui del pensiero strutturato su recenti avvenimenti e sul nuovo rifiuto alla richiesta di permessi di uscita dal carcere per motivi educativi. Nei primi giorni di sciopero della fame, nel mio intervento durante l'assemblea solidaria che ha avuto luogo nella scuola, nell'Ateneo del Politecnico, avevo detto che la risposta negativa di Nikopoulos, che da tempo affermava di essere incompetente per decidere sull'argomento, è l'inizio di una strategia statale con l'obiettivo di sterminarmi. Questa valutazione politica è totalmente confermata, per prima cosa con l'ordine della direttrice del carcere di Korydallos, Evangelia Marsione, di alimentazione forzata, azione che consiste in una vera violazione e che ha condotto alla morte tra cui anche a Holger Mainz in Germania, lo ricordiamo, Holger Mainz della RAF negli anni 70. Poi dopo parleremo di un'altra cosa della RAF che sta tornando in voga tra gli anarchici, non so perché, nonché i vari membri del Grapo in Spagna. I medici dell'ospedale hanno avuto la dignità di gettare nella spazzatura l'ordine della direzione penitenziaria e si sono rifiutati di eseguire. Dopo essere ricorsi ad un consiglio giudiziario e fuori dal carcere, un passaggio legale scelto da molti prigionieri quando il consiglio del carcere rifiuta le loro richieste, ne è risultato un rifiuto, basandosi sul fatto di essere condizionati dalla decisione di Nikopoulos. Esattamente la stessa decisione per cui è stato effettuato il ricorso. Per quelli che hanno un minimo di percezione politica, l'intervento del Ministero della Giustizia, un giorno prima che si celebrasse l'udienza, è stato un chiaro ordine di rifiutare la mia istanza e spiegherò il perché. Pubblicato dal Ministero della Giustizia si cita indirettamente il fatto che Atanasio, ministro della giustizia, non potevamo anche leggere merda, ministro della giustizia non è competente a decidere in merito, e più in basso nello stesso documento viene scritto: concesse esclusivamente dal consiglio carcerario competente, presiedute dal funzionario del pubblico ministero competente, mentre per gli imputati serve l'approvazione dello strumento giuridico che ha ordinato la loro temporanea detenzione. Vale a dire, il ministro annulla, in forma semplice e chiara, la validità del mio ricorso. Tutto questo va accompagnato dalla proposta, senza fondamento, di tenere lezioni attraverso la videoconferenza, in luogo di permessi a fini di studio, qualcosa che non ha senso, visto che esistono laboratori che presuppongono la presenza fisica obbligatoria. Inoltre, aprendo la strada ai consigli carcerari al far abolire completamente i permessi studio, conoscendo bene il loro timore nell'assumersi le proprie responsabilità, facendo sì che la soluzione della videoconferenza sia applicabile a tutti i prigionieri. Sulla stessa linea, in breve, anche i colloqui con le nostre famiglie avverranno attraverso schermi per ragioni di sicurezza come i nostri processi. La tecnologia a servizio della correzione della giustizia, progresso umano o fascistizzazione, la storia giudicherà. A questo punto conviene pure citare la carta del giudice speciale Eftichis Nikopoulos, che ha attaccato i chiari ordini politici dei suoi comandanti del Ministero di Giustizia. Per questo tutti lo giudicano responsabile. A compensazione di questa sua colpa ci sarà la sua promozione al Tribunale Supremo dell'Areopago. Insomma, quello. A compensazione di questa sua colpa, come è successo per il suo predecessore Dimitris Polas, siccome mi era piaciuto, lo stavo ripetendo, stavo rileggendo lo stesso libro. Dimitris Polas, che aveva capeggiato decine di campagne repressive anti-anarchici. ora si ingozza del corposo salario dell'elite giudiziaria dell'Areopago. Casualità? Non credo. Da parte mia continuo a superare qualsiasi possibilità di retrocedere, rispondo con lotta fino alla vittoria o fino alla morte. In ogni caso, se lo Stato mi assassina con il suo atteggiamento, il suo signor Atanasio e i suoi amici saranno ricordati dalla storia come una banda di assassini, istigatori alla tortura e all'assassino di un prigioniero politico. Speriamo solo che ci siano quegli spiriti liberi che aggiustino il giusto della loro giustizia, a modo loro. Non mi dite cosa vuol dire, non l'ho capito nemmeno io. Per finire, voglio trasmettere la mia complicità ed amicizia a tutti quelli che si pongono al mio fianco con tutti i mezzi possibili. E due parole per i miei fratelli, Yannis, anche lui in ospedale, Andreas e Dimitris e molti altri in più. La lotta comporta delle perdite, visto che nei percorsi in mano con la morte, mettendo tutto a rischio per guadagnare tutto. La lotta continua con una pugnalata ripetutamente, tutto per tutto, mentre viviamo e respiriamo, viva l'anarchia. Il 6 dicembre ci incontreremo nelle strade della rabbia. Il mio pensiero percorrerà le strade conosciute, perché vale la pena di vivere per un sogno, anche se il fuoco ti brucia. E come ben diciamo noi, forza, Nikos Romanos. E poi sotto c'è un post scriptum del compagno. È ovvio che non posso controllare gli automatismi sociali che si verificano. Comunque tutti quelli di Siriza e gli altri commercianti di Speranza che erano venuti li ho mandati via, senza dialogare, e sottolineo che ho firmato ufficialmente il mio rifiuto a ricevere qualsiasi tipo di siero. Questo era per quanto riguarda lo scritto di Nikos. Dicevamo prima di riferimento alla RAF. È proprio qualche tempo fa, una settimana, due, è comparsa una rivendicazione in Polonia sul sito del Grecia Wogniu, cioè la Grecia in fiamme, che è dopo stato ripreso anche da altri siti, firmato Queer Meinhof, la cellula Queer Meinhof Fai. Controsenso, cioè io veramente, che può venire solo dall'est questo. Cioè io capisco che insomma questa cosa è comparsa all'est come conseguenza di certi, per capire come questo può essere dopo ripreso, quindi dandone una credibilità, un valore a questo non senso, a questo oxymoron, niente opposte come era la Meinhof, insomma, uno dei personaggi più importanti della RAF, con quello che è la FAI. Cioè, sono due mondi, cioè non due mondi, due universi che si scontrano. Unire queste due cose sembra che ormai sta diventando una cosa molto usuale, di cui nessuno si pone la domanda di cosa c'entra un'organizzazione come era la RAF, cioè il comunismo. Pure oltre le Brigate Rosse. Sì, volevo dire, cioè a sto punto possiamo anche andare, cioè che può apparire anche una cellula nominata Ocalan, perché Ocalan, meglio Ocalan diventato anarchico. Cellula Ocalan per chi è informato. Ormai, cioè, può far ridere. Però che verrebbe pubblicata ormai una puntata del genere. Senza farsi come è stata pubblicata quella della Queer Meinhof, perché cioè Meinhof, Ulrike Meinhof, cioè non è che uno debba andarsi a leggere la storia della RAF. Ulrike Meinhof è una delle due cofondatori della banda Bader Meinhof. Cofondatori della RAF, insomma, se tutti sappiamo chi era la RAF comunque era in Germania, erano lo stalinismo, lo avevano in casa, insomma, nella Germania dell'Est, quindi erano molto più vicini allo stalinismo che erano le Brigate Rosse, anche senza ovviamente dare qualche valore alle Brigate Rosse. Io con questo consiglierei di andarsi a leggere i documenti, perché cioè, come dicevo io nello scritto delle riflessioni della settimana scorsa, basta mettere una donna con il fucile in mano e yuhu, tutti contenti, tutti gasati. E di, sì, cioè, mi sembra proprio una cosa, cioè l'immagine che in media ci propongono, che dopo la rincorriamo anche noi. Colleghe mai non fa associata alla Federazione Anarchica Informale, no. È una bestialità, è proprio un'atrocità che giusto dalla Polonia poteva arrivare, paese di Papa Wojtyla. Cioè io è comprensibile, ok, che arriva dalla Polonia, ma non capisco perché dopo queste cose passano. Non, cioè non che passano solo inosservate, ma anzi vengono anche pubblicate, e pubblicandone ovviamente si dà un segno a questo, si dà un valore a questo, e si dice automaticamente, il messaggio che viene dato è che questo sia una cosa, una strada su cui continuare. Cioè cellula Joseph Stalin, no, questa serve molto. Ma io no, io proporrei Trotsky, perché vabbè, Trotsky è stato ucciso, più morti, però ha fatto più morti di Stalin, a me tra gli anarchici ne ha sterminati un po' di più. Vediamo chi c'ha il coraggio di firmarsi cellula Trotsky, Federazione Anarchica Informale. Lui è stato un martire dello stalinismo, quindi potrebbe anche no, la cosa più preoccupante è che cioè, da un progetto, cioè che non era un progetto di persone che di una struttura organizzata, quella della Federazione Anarchica Informale, si sta passando al delirio, si sta distorcendo completamente tutto il significato di quel testo della Federazione Anarchica Informale del 2003, sì, in cui si diceva cosa doveva essere la Federazione Anarchica Informale, e secondo me andava preso, è normale che negli anni possano avvenire dei cambiamenti, ma non degli stravolgimenti, ma dedica alla Federazione Anarchica Informale una cellula a nome di Ulrike Meinhof, perché questo modo fa e rimane veramente solo un acronimo e assolutamente null'altro, perché sta diventando una moda, diciamolo, cioè sta diventando come la cerchiata che la disegnano dai la New Generation punk. È la stessa cosa, il business delle magliette con la cerchiata, invece della cerchiata si mette Federazione Anarchica Informale. Però così uno si dovrebbe fare il lavaggio di coscienza e chiedersi, sto buttando merda su chi comunque sta portando avanti quel progetto, anche con sigle diverse, con però lo so. Ma insomma, cioè, per dirla breve, cosa c'entra Federazione Informale con un'organizzazione strutturata come erano le RAF? Gerarchica. Punto. E non c'era un cazzo di informale quella struttura, ecco, la struttura della RAF. Perché non poteva esserci essendo comunisti. Vabbè. Allora, provocazione della giornata, immancabile. Ci voleva. Non mancano, ce ne saranno altre. Boh, ora vediamo, leggendo i testi, poi ci vengono in mente. Allora, ora ci ascoltiamo un brano dei Skinny Puppy, il brano è Anger, e poi dopo si torna qui ancora con la controinformazione. We'll be right back. Sebastiano Verslugge per la libertà di Tamara Farias. Con questa mail rivendichiamo un blocco della linea ferroviaria del treno porta merci nella provincia di Talagante a Santiago il giorno mercoledì 26 novembre, che era diretta a Region con grandi pietre e macerie dopo aver bloccato la linea da un'altezza considerevole. Abbiamo incendiato alcuni pneumatici a circa 50 metri dalla barricata costruita. Poi abbiamo lasciato volantini in solidarietà al nostro fratello caduto in combattimento Sebastiano Overslugge per la Farias. Oggi, come altre volte, abbiamo deciso di agire contro uno dei tanti strumenti di questo sistema di dominio e sfruttamento. In questa occasione un sabotaggio rivolto ad un settore dell'immensa macchina del capitalismo riflette nei flussi di merce che questo sistema trasporta in lungo e in largo tra le sue città costruite a beneficio della propria riproduzione. Con questa azione ricordiamo il compagno anarchico Sebastiano Verslugge che con sapove anonimi decise di espropriare un banco estado nel comune di Pudahuel il giorno 11 dicembre dell'anno 2013. Assalto fallito a causa del bastardo William Vera, questo figlio di puttana, che scelse volontariamente di difendere gli interessi del capitale e senza dubitare sparò contro il nostro fratello, che con fierezza sfoderò la sua mitraglietta aprendo il fuoco senza titubare. Purtroppo i colpi del bastardo colpirono in pieno, portando alla morte del nostro compagno, la morte in combattimento. Ricordiamo questo giorno con tristezza e odio, però non possiamo dimenticare la tua grande audacia. Noi non scordiamo il tuo contributo alla lotta anarchica. Manteniamo la nostra memoria come un'arma e la trasformeremo in azione. Faremo della teoria una pratica contro il potere in tutte le sue forme. Faremo che le tue ultime raffiche si convertano in semi di insurrezione. In modo invitiamo l'ambiente anarchico, antiautoritario, a commemorare il primo anniversario della morte del nostro compagno con fuoco e ribellione. A non scordare i nostri fratelli e le nostre sorelle morte della guerra sociale. È necessario far crescere azioni di tutti i tipi per aumentare il conflitto permanente contro tutta l'autorità. Intendiamo la solidarietà come una costante messa in pratica delle nostre idee anarchiche in tutte le sue forme, che faccia capire al nemico che qui nulla termina, che tutto continua in carcere o per strada, ovunque si è. Neanche un minuto di silenzio è una vita di combattimento. Monica Caballero e Francisco Solari. Salutiamo i compagni che hanno sollevato l'istanza di agire in molteplici forme durante la settimana di agitazione e solidarietà anticarceraria. In questo caso, il sabotaggio realizzato lo dedichiamo anche a Tamara Farias, che in questo momento affronta un'altra tappa del processo contro di lei, con l'accusa di aver sparato contro una guardia del Banco Estado. Dal nostro circolo sappiamo che la compagna affronta con interezza e dignità la prigione e i prossimi processi che si avvicinano. Per questo seguiamo la nostra abitudine di solidarizzare attraverso l'azione stessa e di più forme possibili. Agitiamo e cospiriamo fino a ottenere la sua libertà e ovviamente per quella di ogni compagno sovversivo incarcerato nelle prigioni dello Stato capitale. Oltre all'azione stessa, pensiamo che l'attacco e il sabotaggio devono essere accompagnati da un lavoro quotidiano e dedicato, con l'intento di proiettare idee pratiche di liberazione totale alla coscienza attiva e anarchica. Questo perché più compagni affini si dedicano a progetti antagonisti al capitale, contribuendo alla lotta sovversiva con le forme che preferiscono, per esempio in biblioteca, attività, giornali, assemblee, striscioni, manifesti o qualunque altra cosa. L'immaginazione non ha limiti, è importante espandere le idee pratiche anarchiche con l'intenzione che si riproducano per far sì di diventare una vera minaccia dello Stato capitale. Avendo chiare queste cose, è necessario che i progetti pubblici e anonimi siano sicuri, una coordinazione che permetta la combinazione di questi per attaccare il potere in più punti, diffondendo le idee rivoluzionarie e mettendole in pratica con l'attacco e il sabotaggio. Non ci interessa rimanere nei libri. Prima facemmo vari esempi che contribuiscono alla lotta sovversiva. Qualcosa di essenziale per noi, che va di pari passo, è la solidarietà rivoluzionaria. Crediamo che sia necessario proiettarla in un appoggio concreto, simbolico e materiale con i nostri compagni che si trovano prigionieri per cominciare una guerra che è stata dichiarata contro tutto l'apparato di coercizione. Non possiamo lasciare solo chi condivide le nostre idee pratiche e chi ha agito senza titubanza finendo in prigione per qualche errore o per la fortuna della polizia. Però mai con la testa bassa, ma camminando dritti, sorridendo, degni, burlandosi dell'autorità, mantenendo le sue idee con fermezza e mandandola fuori dalle mura a chi continua la lotta. Per finire, crediamo che ogni azione realizzata accresce la lotta anarchica. Far nascere progetti che si mantengano nel tempo con l'intenzione di diffondere idee pratiche di liberazione totale e di solidarietà rivoluzionaria con i nostri compagni in carcere, lasciando da parte il linguaggio del potere, senza riconoscere colpevoli e innocenti. Questo sarà la base per la costruzione di un ambiente unito, che resista all'attacco del potere e che si possa scontrare con esso, mantenendosi fermo, senza vacillare, senza ripensamenti né scuse in questa guerra dichiarata, affrontandola dal nostro punto di vista. Solidarietà rivoluzionaria con Tamara Farias, Sebastiano Versluch presente nella lotta anarchica. Che la tua ultima raffica si tramuti in semi di insurrezione. Gruppo anarchista coordinato GAC. Banda organizzata Mauricio Morales. Cellula incendiaria Sebastiano Versluig. Questo era il testo di rivendicazione per l'attacco in solidarietà con Tamara e in ricordo di Sebastian. Nulla da aggiungere questa volta, prima abbiamo aggiunto, ora non abbiamo nulla da aggiungere e quindi ci andiamo ad ascoltare un brano di Motormark che ha per titolo Blame e poi dopo si torna qui con una nuova notizia di controinformazione. We'll be right back. E questi erano Motormark con il brano Blame. Ora si passa, si torna in Europa, però stavolta si va in Spagna, anche se l'ho scritto di un compagno cileno detenuto in Spagna, cioè Francisco Solar, compagno arrestato insieme a Monica Caballero, accusato di appartenere al comando insurrezionale Matteo Morral, comando che attaccò la Basilica del Pilar a Saragozza. È accusato anche di un altro eventuale attacco che avrebbero dovuto preparare nei confronti di un'altra chiesa. Allora, leggiamo il testo di Francisco. È passato un anno da quando la polizia fece irruzione nel nostro appartamento gridando: avete qualcosa di caldo? Rimasi sorpreso allo stesso tempo, mi provoco una risata. A me mi ricorda la frase di Madonna, il concerto a Milano, a Torino, dove siete caldi. Poi ci siamo resi conto che significava se avessimo qualche ordigno esplosivo utilizzato come trappola, cosa che aumentò le nostre risate. Un anno in cui sono stato separato dalla mia compagna da centinaia di chilometri, potendo ascoltare la sua voce solamente per 5 minuti ogni 15 giorni. Un anno chiuso in isolamento in 3 diverse prigioni del Regno Spagnolo, prigioni che basano la loro politica penitenziaria sulla psichiatria, curando i detenuti ai fini dell'annullamento, stabilendo il controllo assoluto sulla comunicazione. E con queste prigioni del primo mondo viene data priorità al rapporto impersonale con l'esterno. Tutto ciò che significa contatto fisico è estremamente limitato, a differenza della mia esperienza nelle carceri cilene. La possibilità di stare qui con la tua gente è impensabile in posti come questo. Un anno in cui la solidarietà si è fatta sentire in ogni minuto, in particolare dagli anarchici di Barcellona, che con la loro volontà e iniziativa hanno distrutto la dispersione e l'isolamento. Essi hanno dimostrato che la solidarietà non è una parola vuota, che è il contenuto inseparabile di tutte le nostre pratiche e la lotta per la liberazione totale. Con questo, ancora una volta, il potere si mette in evidenza, non capisce nemmeno minimamente su cosa si sostengono i nostri rapporti. Le difficoltà che ci impongono ci rendono più forti, nelle avversità ci conosciamo di più e molto di più impariamo a conoscerci e ridiamo di più su quanto pensassimo insormontabile. Se decidiamo di affrontare lo Stato è perché da molto tempo abbiamo deciso di smettere di vivere in ginocchio. Francisco Solar, 13 novembre 2014. E questo era il testo di Francisco, che segue quello di Monica che abbiamo letto la settimana scorsa. Per i compagni non ci sono ancora aggiornamenti per quanto riguarda eventuali processi e roba varia. Allora, dicevo, questo era il testo. Ora ci ascoltiamo un altro brano. Loro sono Gencabo, il brano High Tech Low Life, e poi dopo si torna qui con l'ultima notizia di controinformazione della giornata, della diretta di oggi. Three. Adesso cambiamo completamente l'ambiente, non è né Grecia, non è collegato al Cile, ma questa volta in Regno Unito, dove è stata spiccata una taglia, un mandato di cattura per un compagno anarchico. Del 3 dicembre del 2014 dai mass media britannici si legge del mandato di cattura con taglia di 10.000 sterline per chiunque offra informazioni su di un compagno anarchico già libero latitante da 3 anni in seguito alla repressione seguita all'esplosione di guerriglia urbana del 2011 a Bristol e da una serie di attacchi anonimi e firmati El-Fai. Più di 100 attacchi avvenuti nel Regno Unito negli ultimi 3 anni che hanno prodotto più di 20 milioni di sterline di danni a vari obiettivi, tra cui tralicci per le telecomunicazioni, banche, addestramento della polizia integralmente distrutto durante un attacco, tra cui l'ultimo in solidarietà a Nikos Romanos avvenuto pochi giorni fa. Il compagno ricercato, Hugh Norfolk, è accusato di alcuni di questi attacchi. Di seguito c'è uno scritto dalla sua latitanza che è tratto dalla brochure Since the Bristol Riots. Noi siamo i ragazzi perduti, arrabbiati e disillusi da false promesse. La gioventù incontrollabile, insoddisfatta del misero futuro che ci viene offerto. I componenti inutili che rifiutano o sono in ogni caso esclusi dalla schiavitù salariata, o gli elementi di rottura che combattono per distruggerla dall'interno, la minoranza di guastatori degli schemi della normalità obbediente, gerarchica, razzista, patriarcale, gli incappucciati in rivolta costante contro tutto questo ed oltre. Siamo i vostri figli e quelli della vostra società. Ed oggi è venuto il tempo per i componenti di quella società di decidere se saranno la mano che cerca di fermarci o la mano che accende la propria cospirazione per l'autodeterminazione. Hugh Badger Norfolk, solo un altro in fuga, ottobre 2011. Insomma, è tratto sì, da questo opuscolo Since the Bristol Riots, che è stato pubblicato da Person Unknown Publication in inglese, che si può scaricare direttamente qua del sito, e dove sono raccolte insomma tutte le testimonianze di quello che è stato la rivolta del 2011, contro cui insomma contro questo compagno è stato non solo spiccato un mandato ma addirittura una taglia. Io pensavo che non esistevano più, esistevano solo nei film di Sergio Leone, le taglie, i cacciatori di teste, di ferra, i fondatori degli Stati Uniti. Invece è sopravvissuto, non se non sbaglio era penso l'ultimo paese in Europa che aveva abolito l'impiccagione come pena di morte, quindi anche la taglia, quindi non me ne è rimasta. Hanno detto almeno questa la lasciamo. La taglia la lasciano, quindi chi vuole offrire? Lo dice il suo compagno. Ecco qua, ben 10.000 sterline si intasca. Cioè, ci sarà la fila degli infami per raccattare sta miseria. Sì, quindi prendere il numero, mettersi in fila. Allora, con questa notizia, con questa taglia, chiudiamo oggi la diretta d'azione, mandando l'appuntamento a mercoledì 10 e non a lunedì prossimo, due giorni dopo. Slitta di due giorni alla radio con la controinformazione, ovviamente, e soprattutto con la lettura di Sergio Spiasecki. Stiamo leggendo Nessuno ci salva, storia di ladri nelle zone dell'est, dove ora si combattono le guerre. All'epoca c'erano i dritti e c'erano i merli, e adesso ormai c'è solo i... No, sicuramente ci saranno ancora i dritti e i merli, però c'è anche una guerra in corso, c'è un figlio di Putin Sì, ma insomma, leggevo proprio l'altro giorno che il nuovo governo ucraino è praticamente ministri, è stato, dopo le ultime elezioni, è stato formato da persone straniere, tra cui un americano e uno georgiano, mi pare, comunque, insomma, filo occidentali, che hanno ricevuto la cittadinanza ucraina solo per subito, sul posto, no, ad persona, nel momento, quindi per poter accedere al governo. Quindi ormai l'Ucraina è governata, insomma, dagli stranieri, e spesso si dimentica che questo... C'è la tavola della scrivania, da dove c'è il mouse che cammina da solo, si sposta da solo. Allora, dicevo, appuntamento a mercoledì prossimo con Sergio Spiasecki, la controinformazione na 013. Con questo è tutto, vi saluto. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture,